al tour con Ivan Basso. Ultima tappa del Tour de France, anche ultima tappa del viaggio di Radio 24 sulla bicicletta di Ivan Basso, che è stato cronista d'eccezione per la nostra radio in questo Tour de France. Oggi l'arrivo a Parigi ha premiato ancora una volta Cavendish, quinto successo di tappa in volata, terzo consecutivo nell'ultima tappa del Tour de France. Ivan, ben ritrovato. Beh, che effetto fa dopo tanti chilometri vedere Parigi? Buonasera a tutti, buona domenica a tutti. L'effetto è sicuramente molto bello, il tour porta sempre una grandissima emozione. Chiaro che le mie aspettative erano diverse, però bisogna così prenderne atto e vivere anche la sconfitta con serenità e ripartire da questo per cominciare a sognare il prossimo tour. Qual è l'immagine che ti porti dentro da questa avventura che in fondo è il Tour de France? L'immagine quella comunque di aver lottato con i corridori migliori del mondo. I corridori che mi sono arrivati davanti sono atleti che hanno fatto cose eccezionali negli anni precedenti, quindi io credo che, come ho detto, non ho ottenuto quello che io volevo, desideravo e quello per cui mi ero allenato, però bisogna prendere atto anche delle sconfitte con grande serenità e usarle come motivazione per ripartire. Al di là dei grandi big, qual è stato il giovane che più ti ha impressionato? Ma io credo che la sorpresa sia stato Roland, l'atleta che ha vinto l'Al d'Huez, la maglia dei giovani, e che ha lavorato per tutto il tour per Vauclair, quindi trovo che sia stato lui la sorpresa di questo tour. Ivan, allora grazie per aver raccontato a Radio 24 il tuo personalissimo tour. A questo punto ti aspettiamo al più presto in studio qui da noi però, Certo, buona domenica a tutti e arrivederci a presto.